24 mattino. Eccoci qua alle 8:15, 349-238-6666 per i vostri messaggi, del momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Sandro, buongiorno. Per buongiorno a tutti. Giorno ti vedo. Vabbè, no, speriamo di no. Un po' meno soddisfatto. In questa, diciamo, metto, composizione intorno a questo tavolo, metto, magari. Sì, i rumori della paletta del sacchiello che senti, sono già la valigia. Li prenderò anch'io prima o poi, speriamo. È il mio ultimo giorno di lavoro, poi torno, non ti preoccupare. Lo so. Allora, no, non mi preoccupo. Un po' più di entusiasmo. Forza, oggi per il tuo ritorno, per la tua partenza. Oggi parliamo di questa vicenda. Concludiamo la settimana in bellezza, devo dire. Che è un nostro concittadino che però è con noi adesso, che vive negli Stati Uniti, non pensava probabilmente di fare questo mai scompiglio tornando no, in Italia. Infatti, anche perché dopo il mitico caso di Roma, che ormai viene citato e raccontato ovunque, quello famoso del ristorante, il passetto, dove i due malcapitati turisti giapponesi hanno pagato un salasso del tutto inaspettato, andando poi a denunciare anche il ristorante in questione, adesso è venuta fuori questa notizia dalla cronaca di Milano che potrebbe competere tranquillamente con il caso Capitolino. In questo caso però il salasso non è stato pagato al ristorante, ma in tintoria. Luca Giussani, buongiorno. Luca, buongiorno. Allora, lei è un imprenditore, vive da quello che ho potuto ricostruire dalla cronaca dei giornali locali, in particolar modo in questi giorni, la cronaca di Milano, tra Milano e Miami, e nelle ultime settimane era a Milano, aveva un po' di cose da lavare, le ha consegnate al portinaio dello stabile dove lei sta in questi giorni, non in questi giorni perché stamattina l'abbiamo raggiunta in un'altra località, e quando è andato a pagare il conto che cosa è successo? Anzi, ce la ricostruisca lei la sua vicenda. Guardi, ho chiesto al portinaio dello stabile dove sono ospite di un amico se era possibile chiamare una lavanderia per lavarmi alcune camicie, magliette e pantaloni. Il portinaio ha aperto le pagine gialle e ha chiamato la tintoria Alberti, nessuno di noi due sapendo sì. I prezzi della tintoria Alberti. No, onestamente non conosco neanche. La tintoria è venuta a ritirare e il portinaio, molto giustamente, ha chiesto alla tintoria di mandare il preventivo prima di fare il lavoro. Tutto questo anche è scritto sulla bolletta di ritiro della tintoria. Un paio di giorni dopo il portinaio mi consegna un preventivo di 614 euro per lavare 19 camicie, capi, sì. 7 t-shirt, 2 blue jeans e 2 paio di calze. Io ho chiamato la tintoria, gli ho chiesto erano matti e sicuro gli ho detto di non fare il lavoro. A quel punto mi hanno detto che l'avevano già fatto e che se volevo la mia roba dovevo dargli 614 euro. No, peraltro lei ha aggiunto, mi scusi se la interrompo, altri particolari alla ricostruzione che è circolata sui giornali in questi giorni, perché in realtà noi non avevamo capito che lei si fosse fatto fare un preventivo di spesa rispetto a tutto questo, che è un particolare non trascurabile, non di poco conto in tutta la vicenda, che adesso è anche una piega legale. Il preventivo di spesa l'abbiamo richiesto ed è scritto su una delle bollette di ritiro della tintoria che è venuta a ritirare la roba presso il portinaio. Ho capito. E insomma, adesso lei che poi, cosa vuole fare? Sono andato personalmente alla tintoria e gli ho detto: guardi, magari c'è un errore o c'è un malinteso. Io vivo in America, non so i prezzi delle tintorie in Italia, ma mi sembra assolutamente illogico e non correlato alla prestazione di servizio il prezzo che voi richiedete. E a loro? Quel punto mi è stato detto che o pagavo 614 euro o non mi veniva arrivata la roba. Basta. E lei insomma ha preso la palla al balzo per rifarsi il guardaroba in questo frangente. Adesso noi ovviamente la mettiamo giù nello scherzo. 614 euro sono $900, credo che la mia roba non, a comprarla tutta nuova, valga più o meno la stessa cifra. Allora, c'è da precisare un po' di cose. Questa tintoria che lei ha citato a Milano è molto nota proprio perché fa delle prestazioni molto alte, è un servizio molto molto accurato e è una tintoria che ha 60 anni di vita e che ha mantenuto sempre lo stesso standard di prezzo, ovviamente tenuto conto anche dei prezzi che sono andati dei prezzi appunto a seconda degli anni di riferimento, ma voglio dire è una situazione molto nota, mi dicono, a Milano, ed è un'attività che comunque è un grande successo, che lavora molto tranquillamente. Il tema è che in questo caso, come dire, c'è stata una situazione di incomprensione, forse. Non le metto in dubbio che la tintoria Alberti possa avere 60 anni di storia e essendo stato amministratore delegato di una società pubblica americana quotata in borsa. Reuters, ho utilizzato studi legali che sono carissimi e il cui servizio, secondo me, era commensurato al prezzo pagato. Il problema è che se un grande professionista si vede arrivare un lavoro da fare che il suo prezzo non è commensurato al lavoro richiesto, un vero professionista dice andate da un'altra parte. Sentiamo un po' cosa dicono i rappresentanti della categoria. Cesare Locati è presidente di Assosecco, l'associazione italiana pulitura, secco e tintorie. Dottor Locati, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la questione non è... E anche il conto complessivamente, perché il nostro Giussani lo contesta totalmente, è la qualità di questo servizio. Io mi chiedo che tipo di trattamento giustifica prezzi di questo tipo. 30 euro per lavare una t-shirt, magari la si indossa per 2 ore, poi è necessario lavarla di nuovo, non è che si possano spendere 30 euro al giorno. Guardi, però questo è è un aspetto della vicenda, secondo me, di secondo piano. Nel senso che spostiamoci un attimo a latere. Noi troviamo dei pantaloni jeans che hanno 2 gambe, 4 tasche, una cerniera, i passanti a 5 euro al mercato, a 40 euro nella grande distribuzione e a 200 euro nella boutique. Che cosa giustifica i 200 euro? A parte mia, niente. Comunque, voglio dire che... Guardi, le dico subito. Un attimo, Giussani, sentiamo adesso Locati. Mi perdoni, sì. È difficile dire cosa giustifica con quel prezzo. Un'azienda applica il suo prezzo, poi giustamente il consumatore dice per amor di Dio, io lì non ci andrò mai, e invece ci sono dei clienti evidentemente che dicono è un prezzo adeguato al servizio che mi viene dato. Quello che non ho ancora capito bene, se il signor Giussani era cosciente o sapeva del prezzo subito all'atto in cui loro hanno ritirato il materiale o solamente la consegna. Allora, da quello che mi risulta, lui aveva un preventivo, voleva stoppare il lavaggio. Giussani mi conferma che è così, e invece quando ha telefonato per chiedere ragione del prezzo che era stato teoricamente pattuito secondo la lavanderia, tutto quanto era già stato lavato. Mi pare che sia stata questa la ricostruzione che ci ha fatto un attimo fa. La lavanderia ha avuto il coraggio di dirmi che loro sono stati autorizzati dal portinaio di prendersela col portinaio, che trovo proprio una ragione bambinesca. Sì, vabbè, ma a parte questo, insomma, Locati, io tornerei a lei. Come vede la posizione, dicevamo, questa comunque è un'attività che ha un gran mercato, perché da 60 anni opera con gli stessi standard e nessuno li ha mai messi in discussione. Quando il mercato c'è, ovviamente un'attività va avanti, chiaramente sta anche in una bella zona di Milano, ovviamente. Pagherà anche un certo, non ha l'affitto perché ormai credo che siano proprietari di questa struttura commerciale. Detto questo, di fronte ad una contestazione come quella che Giussani muove, lei che comunque opera in questo settore, se un cliente le muovesse lo stesso tipo di contestazione, che cosa farebbe? Ma trovo difficile in realtà una contestazione quando c'è stato un'esplicitazione del prezzo prima dell'effettuazione del servizio. Cioè l'inghippo è che probabilmente il dottor Giussani non si è recato, no, questo siamo sicuri, non si è recato in negozio, per cui non ha visto un listino prezzi, ammesso che espongano un listino prezzi. Le tintorie associate a noi hanno un listino prezzi esposto. Forse il portinaio non ha avvertito immediatamente il dottor Giussani dei prezzi che erano esposti sulla bolletta di ripresa. Cioè, quanto tempo è passato tra il ritiro e la riconsegna? Giussani, facciamo una ricostruzione anche di questo tassello. Giussani, ci sente ancora? La bolletta di ripresa non ha nessun prezzo. Sulla bolletta di ripresa c'è scritto per favore di far arrivare un preventivo. Quando è arrivato il preventivo di 614 euro, il lavoro era già stato fatto. Allora è come ho capito io all'inizio. Quindi ci sono i presupposti. Voglio aggiungere una cosa. Sì. Un professionista che ha dei prezzi molto alti, perché probabilmente lavora con capi d'alta moda a 10.000 euro l'uno, quando si vede arrivare 10 camicie di Banana Republic, l'equivalente del Coin in America, dice che questa non è roba che lui tratta, e la manda indietro. E la manda indietro, quindi avrebbe comunque potuto, dice lei, giustificarsi in questo modo. Io, sì, guardi, mi diverto molto questa mattina, vorrei continuare ancora a lungo con voi. Abbiamo raccontato questa disavventura capitata a Luca Giussani, vedremo poi come si concluderà, perché lui ovviamente ci ha messo di mezzo anche un legale. Ci porta però magari a dare qualche suggerimento di buonsenso, locati questi, li assegno a lei, ai nostri ascoltatori. Allora, per evitare di ritrovarci, di incappare in un'altra situazione di questo tipo, magari adesso che è passata la stagione invernale e portiamo tutto quello che c'è da lavare, che abbiamo sporcato durante l'inverno, in lavanderia e magari l'andiamo a ritirare alla fine dell'estate, no? Perché per comodità magari ci serve fare così. Patti chiari, amicizia lunga con la lavanderia sin dall'inizio, che cosa dobbiamo fare? Ci dia qualche indicazione di buonsenso. Assolutamente, recarsi in un negozio di lavanderia dove c'è una chiara esposizione dei prezzi, dove al momento stesso in cui la lavanderia ritira la merce vengono esplicitati tutti i prezzi, cioè in effetti c'è qualche lavanderia che ha un listino prezzi che dice pantalone da sì 4A e non dice il tetto massimo, ecco, insomma. Secondo me quello è una cosa da chiarire immediatamente. Poi ce ne sono tante che comunque quando si consegnano gli abiti da lavare in realtà fanno pagare in anticipo, quindi quello, insomma, secondo me è la soluzione migliore, quindi si può contestare seduta stante ciò che non ci va. Anche se a volte il consumatore non lo capisce bene, però il fatto di portare la roba e pagare prima il prezzo garantisce che costo della prestazione è quello. Esatto. No? Poi se il capo magari viene lavato male e nascono altri problemi, lì sono altre questioni che magari affronteremo in un'altra circostanza. Io ringrazio molto Cesare Locati e Luca Giussani per essere stati con noi per questa vicenda di cronaca che ci ha divertito molto nelle ultime ore. Giussani prima al telefono mi ha detto: io mi sono divertito molto meno, anche perché adesso deve anche capire cosa fare, insomma. Alessandro, tu tutto precisino, sempre con tutte le tue camicie, sì, tirate tutte, belle tutte fresche dalla lavanderia. La migliore è di Fabrizio, che ci scrive: laveranno con l'acqua Perrier in quella esatto, in quella... con le Vianne, infatti. Vabbè. Allora, Salva Danaio, una puntata dedicata alla finanza, prima di chiudere anche noi con le vacanze e gli ETF. Parleremo di questi strumenti di investimento, che stagione stanno vivendo. No, in vacanza ci vado io, tu stai qua ancora una settimana. Eccoci rientrati alle 8:31 minuti, diamo uno sguardo. Guarda le notizie in primo piano: due morti, decine di intossicati, oltre 10.000 ettari in fumo e diversi evacuati. La situazione in Sardegna colpita da diversi incendi, si tratta della situazione peggiore degli ultimi 20 anni. Sono al momento 6 gli incendi attivi sull'isola e oggi si prevede un'altra giornata molto difficile. Per la politica oggi è previsto il voto di fiducia sul decreto legge anticrisi alla Camera. Il decreto ieri è stato modificato, salta la stretta sulle banche, sulla quale l'associazione bancaria aveva espresso forti obiezioni. E ci sono nuove registrazioni di Patrizia D'Addario sul sito dell'Espresso, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, col ministro degli esteri Frattini che accusa alcuni giornalisti di avere pagato la D'Addario per incastrare il premier Berlusconi. Infine, per lo sport e per il calcio, è fatta per Samuel Eto'o all'Inter, guadagnerà 10 milioni e mezzo di euro l'anno per i prossimi 5 anni, e Ibrahimovic, che andrà al Barcellona, ha già lasciato il ritiro dei nerazzurri in California. E dunque, alle 8:33 minuti, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Io ho qua davanti a me alcune notizie che ho preso degli ultimi 3 giorni, non degli ultimi 3 anni, degli ultimi 3 giorni. Ennesimo litigio, lei lo lascia e lui le spara, poi il suicidio in piazza a Palermo, un militare di 20 anni, ieri. Aveva minacciato di fare terra bruciata, non aveva mai digerito il rifiuto dell'ex compagna, la perseguitava, telefonate, e poi se l'è presa con la palazzina dove lavorava lei. A Monteveglio, in provincia di Bologna, ha appiccato un incendio all'ufficio dove lavorava la ex fidanzata. E ancora, Mantova, aveva perseguitato a lungo l'ex fidanzata dopo il loro rapporto, sino a puntarle una pistola alla tempia per poi esplodere il colpo contro un muro. San Giorgio, provincia di Mantova, arrestato. E ancora, insegue la sua ex, la ex in auto, la tampona, la sperona, poi la picchia a calci e pugni, arrestato nel Barese, 36 anni pregiudicato. E ancora, sono scattate stamattina, questo 2 giorni fa, le manette ai confronti di un pregiudicato di Giuliana. L'accusa, atti persecutori, il classico stalking. Fino ad arrivare ieri a Napoli, la vicenda che ha dell'incredibile, ha ucciso la compagna, in un modo efferato, tra l'altro con un'accetta. E tra l'altro voglio salutare Giuseppe Crimaldi, cronista giudiziario del Mattino. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Tu ti sei occupato in particolare di questa vicenda di cui scrivi oggi sul Mattino. Questa è la vicenda più incredibile, perché non solo ha ucciso la compagna, ma credo che ci avesse già provato con le stesse modalità con un'altra donna qualche anno fa. È così? È così, purtroppo. E questa volta la vicenda è tanto più paradossale, come dicevi tu, proprio perché non si può dire che non si sapeva di quest'uomo. Quest'uomo nel 2008 aveva già picchiato la stessa donna che poi ha ucciso ieri, ma è incredibile, cosa veramente ancora che fa rabbrividire, che nel 2002 aveva tentato di uccidere la moglie conficcandole nell'addome un coltello di 20 centimetri. La donna si era salvata solo perché la lama si era spezzata nella pancia e insomma era stata ferita gravissimamente. Però, e che era successo allora? Perché voglio dire, già anche sul sito io vedo del Mattino, già da ieri, insomma, quei commenti, dice: ma com'è possibile che una persona del genere fosse libera? Cioè, ci sarà stato un processo, immagino. Vedi, no? Ecco, è proprio questa la cosa assurda. Il signore Valboa, Renato Valboa, cosa più incredibile, che risulta incensurato, nel senso che noi di questo signore che circolava a piede libero, noi la legge, voglio dire, è come se quest'uomo non esistesse, no? Essere incensurato significa godere di tutte quelle prerogative per cui non sei né sorvegliato, non voglio dire ristretto a misure cautelari. Questo è uno degli elementi su cui riflettere sicuramente. Perché, voglio dire, mi domando quanti Valboa ci siano in circolazione a Napoli, in Campania, nel Mezzogiorno, in Italia, come ricordavi tu, i casi, voglio dire, non mancano. Ma no, ma sono incredibili. Vabbè, ma questa è una vicenda giudiziaria che ha dell'incredibile, insomma, incensurato, aveva tentato di uccidere con la stessa modalità con la quale poi ieri ha messo in pratica nei confronti di un'altra donna i propositi omicidi. Io, tra l'altro, voglio salutare anche la professoressa Anna Boldri. Buongiorno, professoressa. Lei insegna psicologia sociale alla Seconda Università di Napoli. Tra l'altro ha scritto anche un libro dal titolo emblematico, ne ha scritti diversi, ma l'anno scorso il libro era Uomini che uccidono, storie, moventi e investigazioni. Lei è abituata a trattare questi casi, non la stupisce sapere che solo in 3 giorni ci sono gli episodi che io ho raccontato? Perché ci sono così tanti uomini che uccidono donne? Diciamo che invece no, ogni volta mi stupisco e rabbrividisco. Non mi stupisco del fatto, ecco, che avvengano così frequentemente, perché anzi, fortuna, voi avete letto anche notizie di cronaca relative a quelli che non si trasformano in omicidio, ma insomma, lavorando presso anche centri antiviolenza, Roma gestita l'associazione Differenza Donna, che appunto segue centinaia e centinaia di donne che subiscono maltrattamenti, persecuzione, vediamo come, e questa appunto è la punta dell'iceberg, perché dietro a questi casi, che forse la cronaca ogni tanto ne parla, però giustamente, come osservavate voi, è dell'incredibile che ci sia così poco risalto, sempre, non è solo oggi, questo succede molto frequentemente, una donna uccisa, proprio partner o ex partner, non fa notizia. Perché se tu viene uccisa una persona con cui hai o avevi una relazione, non viene percepito probabilmente dalla società, dalla cultura in generale, la stessa gravità che se tu vieni ucciso da una persona invece, no? Sconosciuta o dalla criminalità organizzata o meno, come se la vita di una donna uccisa da un suo partner non avesse lo stesso valore. Ora questa è la mia considerazione personale, ma c'è da riflettere su questo aspetto. Che ancora oggi, se si considera che in Italia ogni anno vengono uccise di media 100-110 donne, quindi una ogni 3 giorni. Avviene spesso proprio in famiglia, cioè il partner, l'ex partner, il marito, l'ex marito, l'ex compagno, in genere la maggior parte è proprio così. Sì, esattamente, in questo libro che lei citava, scritto insieme al vicequestore aggiunto Ferraro, abbiamo analizzato tra l'altro non solo quelli che possono essere fattori di rischio e le cause, se così si possono chiamare, di questi uxoricidi, questi femminicidi, perché sono proprio nella maggior parte dei casi, l'88% dei casi si tratta di donne uccise da partner o ex partner, si vede come appunto sono molto frequentemente mariti o fidanzate e conviventi, ma sono in aumento, questo è da riflettere, i casi di ex, no? Per esempio esempio il caso di Palermo, di quella ragazza sempre ieri sparata dall'ex fidanzato, è un caso emblematico. Nello sportello anti-stalking che gestisco a Roma, appunto presso il centro Marè, dove seguiamo ormai dall'ottobre del 2007 i casi di persecuzione e stalking, quindi ancora prima della messa, insomma, della messa in vigore della nuova legge anti-stalking, abbiamo seguito centinaia di casi di donne, quasi sempre, però c'è anche qualche caso di uomo perseguitato, oltre, insomma, quasi nel 70% dei casi da un ex partner. Non sono tutti casi così gravi che sono a rischio poi di omicidio. Tuttavia quello che è importante, che poi un po' il lavoro che si sta facendo ormai da anni, sia nell'associazionismo, sia a livello istituzionale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la stessa magistratura, sta cercando di professionalizzare anche un po' i vari operatori per cercare di far sì che quando un caso viene alla conoscenza delle istituzioni, delle forze dell'ordine, si possa cercare di capire se si tratta di una situazione comunque da monitorare, da seguire, o se già in partenza riusciamo a identificare i cosiddetti fattori di rischio, quindi poter chi di dovere procedere anche all'applicazione di misure idonee. Ma voglio dire, tra l'altro c'è anche questa legge, io vorrei tornare da Crimaldi, Giuseppe, questa legge di cui si è tanto parlato, è entrata in vigore, è stata voluta la legge sullo stalking, no? Appunto le persecuzioni, anche perché spesso dalle persecuzioni si inizia e poi, se poi si passa ai fatti, insomma. In questo caso, cioè, già ci hai dato uno spaccato che ha dell'incredibile, una persona che aveva tentato un omicidio ed era incensurata, mi risulta anche che aveva passato forse un periodo in un ospedale psichiatrico. Cioè, dopodiché, voglio dire, che dicono gli inquirenti su questo? Cioè, com'è possibile che sia incensurato, che non ci sia niente su questa persona? E qui poi ci vorrebbe un'altra puntata, perché come sai andiamo, sfociamo nel discorso dei tempi di realizzazione. Voglio dire, io parlo per quello che so, parlo di Napoli, che è una realtà, è un braciere ardente, no? Su tanti fronti, e non escluso quello che poi riguarda anche altre realtà come questo della violenza sulle donne. E i tempi medi purtroppo sono quelli che sono, però incredibilmente non si può lasciar correre, non si può pensare che dal 2002 al 2009 una pratica si sia in qualche modo. Probabilmente, andando adesso a ricostruire la vicenda di questo signore, c'era stato una richiesta di archiviazione o ci sarà stato un tempo scaduto, è certamente incredibile. Io però, se posso, vorrei darvi un altro dato di riflessione. Ieri, alla fine di questa giornata terribile, mi sono andato a documentare un po' polizia e carabinieri e quanti interventi vengono sollecitati al 112 e al 113 dalle donne, no? Che subiscono una violenza, e mi sono veramente, il dato è veramente inquietante, perché diciamo solo gli interventi richiesti, e quindi tieni conto che il dato è approssimato per difetto, sì. Ogni giorno ci sono dai 5 ai 15 interventi in casa sollecitati da una donna che viene picchiata. È vero, come dice la professoressa, che fortunatamente non tutti i casi però moltiplicali per 365. E poi è vero che molte donne non denunciano, non chiamano. Ancora, ovviamente. Ma mi pare già un dato significativo, no? Assolutamente sì. Professoressa Boldri, mi ha colpito moltissimo. Ieri, l'altro giorno, vedevo Amore Criminale, quello di Camilla Raznovic, un programma molto molto bello, che fortunatamente credo adesso è passato anche in prima serata. E vedevo la storia di una persona, di un ragazzo che, dopo aver ucciso la sua ex fidanzata, è rimasto lì impassibile ad attendere l'arrivo della polizia. È la stessa cosa che è successa ieri a Napoli. Perché? Sì, ho letto anch'io questa cosa e ho visto anche la trasmissione di Amori Criminali, che seguo anch'io con molta attenzione, perché ben ricostruisce proprio quello che è anche il vissuto, anche se noi con queste vittime non possiamo più parlarci, ma del dramma che spesso, come diceva giustamente il giornalista, il grosso problema di queste vittime è il silenzio, cioè la paura, la vergogna di raccontare sin dal nascere di queste violenze che spesso, ecco, ci sono prima di questi episodi estremi. Dietro al comportamento di un soggetto, un reo, che non cerca cerca di depistare le indagini, di fuggire. Ecco, innanzitutto di fronte a questi casi di omicidio bisogna dire che circa il 30% si suicida, il che non vuol dire che è malato di mente o altro, semplicemente io sto riportando i fatti oggettivi. Quindi noi di circa il 30% di casi di tutti questi 110 omicidi che ci sono all'anno non c'è neanche nessun procedimento giudiziario perché l'autore si è tolto la vita. Degli altri sono pochissimi quelli che scappano, cercano di simulare il reato facendo finta che una rapina o quant'altro. Stanno lì. Chiamano loro stanno lì, quindi si aspettano che chiamano loro stessi paradossalmente polizia o carabinieri, perché l'obiettivo non è quello, cioè non è l'atto, il raptus impulsivo. Ci sono alcuni casi, non circa il 30%, se vogliamo dare dei numeri, far capire un po' agli ascoltatori le percentuali, di quelli che proprio sembra che a un certo punto siano impazziti. In molti altri casi, in quasi tutti questi casi, e questi anche che abbiamo seguito questi giorni ne sono un'ulteriore dimostrazione, c'è una sorta di premeditazione, al di là che a livello giuridico si riconosca tale o meno. In che senso? L'obiettivo dell'omicida è quello di eliminare qualcosa che tu non potendo più avere, perché la donna ha chiesto la separazione, perché non ce la fa più a sopportare i soprusi, perché vuole farsi un'altra vita, qualunque sia il motivo, no? Di una libertà di scelta di un individuo. Non lo deve avere più nessuno. Viene percepito, siccome questa è la trasmissione che abbiamo visto l'altra sera, anche per la prova, cioè la donna non è una persona in cui ti relazioni alla pari, è una tua proprietà. Se tu questa proprietà, questo tuo oggetto non lo puoi più avere, lo devi distruggere. No, famosa frase che alcuni anche hanno detto proprio prima di ammazzare alla stessa vittima, scrivendolo: senza di me nessuno mai. Cioè, certo. O con me o tu devi morire prima. No, ma questo è uno spaccato davvero inquietante. Io vi ringrazio, mi devo fermare qui, ci sono le informazioni sul traffico. Ringrazio la professoressa Anna Boldrini, che insegna psicologia sociale alla Seconda Università di Napoli, si occupa di questo tema. Voglio ricordare anche il libro scritto Uomini che uccidono l'anno scorso, così come Giuseppe Crimaldi, che è cronista di giudiziaria del Mattino, ci ha raccontato questa vicenda. Eccoci alle 8:47 minuti. Saluto l'assessore alla scuola della provincia di Vicenza, Morena Martini. Assessore, buongiorno. E ai radioascoltatori. Eccoci qua. È pronta al fuoco di fila di critiche. Allora, no a presidi del Sud nelle nostre scuole. Questo era il titolo di un giornale. È una mozione proposta da lei, approvata peraltro da 26 consiglieri su 27, dunque sì, per dire uno si è astenuto, ma tutti bipartisan, sì. Lei è del Popolo della Libertà, c'è da dire, sì. Allora ci spieghi, pare che la vicenda nasce tutta nel 2004, quando c'è un concorso per dirigente scolastico a livello locale. Io la ringrazio, sì, anche perché mi dà modo di spiegare. Nessuno farà ostracismo nei confronti dei colleghi che arriveranno del Sud, questo è da dire, e non ci sono formule che riprendono il titolo del quotidiano di ieri all'interno della mozione. Noi ci siamo mossi perché dei nostri presidi hanno chiesto anche un interessamento della provincia. C'è stato un concorso, una selezione a base regionale, un bando regionale, che avveniva quindi sui numeri vacanti di ogni singola regione più un 10% di scorta. Cioè, facciamo un esempio: se in Veneto mancavano 100 posti, si potevano bandire 110 posti. Perfetto, diciamo così. E quindi questo su base assolutamente regionale. Ogni regione doveva coprire i posti vacanti della propria regione. E ci sono state regioni che hanno osservato questi numeri dati, altre regioni che hanno promosso, diciamo così, presidi in più rispetto a quelli di cui avevano effettivamente bisogno. E queste regioni, diciamolo, perché sono, non so, per esempio la Campania. La Campania, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, tutte regioni del sud. Del sud Italia. E nel corso passano gli anni, perché dal 2004 si rende conto anche lei, c'è stata una sanatoria, e una sanatoria ha fatto in modo che questi abilitati in più partecipassero quindi ad un altro corso concorso, di superarlo a pieni voti e di aspettare, hanno aspettato che un governo disponibile, in questo caso una sanatoria del governo Prodi, preparasse appunto per loro l'entrata in ruolo, togliendo quella clausola che c'era all'inizio della gara concorsuale della regionalità e rendendo i posti disponibili a livello interregionale. Cioè, ecco, me la faccia tradurre così mi dica se ho capito. Allora, siccome adesso in Veneto voi avevate, non so, 100 posti, avete fatto 100 concorsi e adesso li avete esauriti. Ci sono dei posti liberi, ci sono delle regioni del sud che hanno detto: guardate, ne abbiamo noi in eccedenza, ve li mandiamo noi. E voi non li volete, però questo no, è no, noi non possiamo non volerli, perché abbiamo una cultura che ci impone di non avere pregiudizi nei confronti delle persone, ci mancherebbe altro. Noi accoglieremo i presidi che arriveranno dal sud a braccia aperte, così come abbiamo sempre fatto nei confronti dei colleghi che arrivano dalle altre regioni d'Italia. Noi non ce l'abbiamo con i presidi in sé, ce l'abbiamo con un sistema italico che non va bene. Noi accoglieremo, ma perché ci sono regioni che devono continuare a rispettare le norme e altre regioni che in continuazione non lo fanno? È una lotta di federalismo scolastico, insomma. È una sorta di federalismo scolastico, non è la prima volta. Se noi avessimo abilitato, se noi fossimo andati contro norma e avessimo abilitato 100 dirigenti in più anche in Veneto, questi dirigenti in più, questo problema non si sarebbe posto. Noi abbiamo rispettato le regole all'inizio del gioco, avevamo delle regole da rispettare, le abbiamo rispettate e ci troviamo in questa condizione. Esatto, altri no. Però, assessore, le chiedo, perché oggi sui giornali ha detto il titolo di ieri, ma oggi guardi che è ancora pieno. Allora, Galan, che è il presidente del Veneto e che è del suo partito, quindi l'origine non conta, la civiltà è un'altra cosa. Poi c'è il caso del PD, il PD sempre si mette nei guai da solo, non si capisce. Fioroni ha detto il PD locale si dissoci dal voto, la Finocchiara è una deriva antimeridionale. Però c'avete problemi anche voi, nel senso Galan ha detto non va bene questa cosa. Evidentemente il governatore non aveva letto i titoli dei quotidiani e non aveva letto la mozione in sé, perché io poi ieri l'ho sentito e ha detto: ma se sta in questi termini qua, effettivamente bisogna intervenire piuttosto sul titolo quinto e quindi cambiare e modificare. E assolutamente io sono d'accordo con quello che dice Galan, che non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno. Io ho lavorato con molti presidi, ma si figuri, un pregiudizio, io insegno lingue e letterature straniere e insegno cultura contro i pregiudizi, mi metto a fare pregiudizi nei confronti dei colleghi. Il problema è a monte. È chi ha rispettato le regole e chi no. Però lei ha detto anche la sanatoria Prodi, però anche il decreto Gelmini ha confermato questa interregionalità. Certo. Cioè, quindi, ognuno deve prendere le proprie colpe, deve assumersi delle proprie responsabilità. Secondo me, io sono contenta che il PD a livello provinciale abbia votato a favore del mio ordine del giorno, ma evidentemente loro l'hanno fatto per andare contro, l'hanno vista come una possibilità per andare contro a questo governo, non sapendo che tutto nasce da una sanatoria voluta da Prodi, quindi può darsi che ci sia stato un po' di autogol. E le ripeto, anche confermata dal ministro Gelmini, nel senso. Ecco, benissimo. C'è anche, no, questo per correttezza politica, se no se la deve prendere anche col suo ministro, insomma. Il mio ministro sta facendo delle cose incredibili in così poco tempo, siamo tutti veramente attoniti e basiti. Vabbè. Ma no, il problema guardi, al di là dello scherzo, io mi sono trovata in una regione, una provincia, dove abbiamo assolto tutto quanto chiesto sia dal ministro Fioroni, quindi abbiamo iniziato con la razionalizzazione delle scuole, siamo arrivati al 95% della razionalizzazione dei posti scolastici. Stiamo attuando già la riforma Gelmini, nei prossimi mesi daremo alla provincia di Vicenza una geografia scolastica completamente diversa, tra l'altro assorbendo delle presidenze, quindi creeremo meno presidenze con scuole più grandi, con dei poli più grandi, ecco, per combattere anche la dispersione scolastica. Quindi di fronte a tutto questo virtuosismo ci troviamo ad avere meno insegnanti di quelli di cui abbiamo bisogno, ma non per effetto del taglio, per un effetto nazionale, ecco, sono premiate comunque sempre le regioni che forse hanno meno attenzione nei confronti delle regole di Stato. In ogni caso, assessore Martini, io un punto l'ho capito meno, cioè lei dice: noi accoglieremo a braccia aperte i presidi che arriveranno del sud. Allora è una mozione che pone un problema quasi in modo un po' provocatorio oppure ha degli effetti pratici? Cioè, la mozione non cita mai non cita un divieto o un ostracismo nei confronti delle persone. La mozione parla e riferisce quelle che sono state le regole del concorso, quelle che sono state le ragioni del nostro virtuosismo, dopodiché finisce chiedendo al governo delle azioni per poter fare in modo che questi cambi di regole a fine del gioco non avvengano più. Chiede alla regione del Veneto di poter attuare l'articolo 5, il titolo 5, e quindi di poter bandire noi a livello regionale i nostri concorsi. Per i posti vacanti. Quindi... Diciamo che è quello che propone anche la prossima legge Aprea, cioè il fatto di poter gestire a livello regionale il personale della scuola, ecco, dovrebbe essere la via dovrebbe essere questa. In questo dico una sorta di battaglia un po' federalista, cioè dire gestiamoci, no? Dovrebbe, ma io penso che in questo modo tutti potrebbero venire in Lombardia, in Piemonte, in Veneto a fare il concorso. Non è il fatto del concorso regionale. Quando è stato bandito il concorso a preside a livello regionale, hanno partecipato tutti i colleghi che potevano aver diritto di partecipare al concorso a preside, residenti che operavano in Veneto. Quindi anche molti colleghi del sud che sono stati esclusi e che vivono qua da tantissimi anni e che insegnano nelle nostre scuole. Però è contrario a quelli che vengono abilitati violando le regole, che ne questo, so, in Puglia questo, e poi, questo, e poi dicono non veniamo in Veneto. Non si può iniziare. Ma quante ne servono? Scusi, quante sono le posizioni vacanti? Allora, noi in Veneto ne abbiamo una settantina, e in provincia di Vicenza 26 vacanti. Fra scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. E se adesso aspettiamo i numeri da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che non metterà in ruolo tutte e 26 le cattedre, io penso che arriveranno alla fine 6 colleghi dalle regioni del sud che andrò a salutare personalmente, a rassicurare del fatto che abbiamo un'ospitalità squisita, che viviamo in una regione stupenda e che non ci sono persone che mangiano i colleghi del sud. No, io sorrido perché ospito da 2 anni un collega della Sicilia che prima di che quando arriva a settembre dalla Sicilia si ferma a casa nostra di trovare l'appartamento, quindi non mi si può accusare veramente, però sono contenta e ringrazio i colleghi di Repubblica di questo titolo forte che così mi ha permesso di ha smosso le acque. No, ma guardi, tra l'altro ma io la ringrazio di essere stata qui anche simpaticamente a spiegare con dovizia di particolare. Devo dire che molti messaggi le danno anche a dire ma spiegata così insomma è tutta un'altra cosa, effettivamente non fa una grinza, non fa una piega la spiegazione. Grazie a Morena Martini, assessore alla scuola della provincia di Vicenza. Allora mi fermo qui, io vado in vacanza. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, oggi c'è Guido Scotti in redazione che saluto. Io vado in vacanza, come detto ci sarà Irene Zerbini che già avete conosciuto venerdì scorso, vi terrà compagnia tutto il mese d'agosto. Ora Oscar Giannino e voi buone vacanze.